Ottobre piovono libri. Oggi vi portiamo a Genova per parlare di un'iniziativa rivolta alle scuole, il libro Una porta magica per il viaggio che vuoi tu. Ce la racconta Marco Lignana. Chi parla del cinema come nemico della lettura non ha fatto i conti coi bambini. Lo sa bene il personale della biblioteca Guerrazzi nel ponente genovese, che ha scelto un grande autore dell'infanzia come Roald Dahl per stregare gli allievi della scuola elementare Ferrero. Con una lezione molto semplice, leggere un capitolo di tre classici dello scrittore, mostrare le stesse parole diventate film e rendersi conto di quanto può fare l'immaginazione leggendo un libro. Fra i racconti non manca La fabbrica di cioccolato. Questo, miei cari ragazzi, spiegò il signor Wonka alzando la voce, è il corridoio principale. Da questa parte, prego! Benissimo! Tutti pronti? Andiamo dunque! Si parte! I bambini seguono attentamente prima di guardare il Willy Wonka del grande schermo. Nel gioco delle differenze, la platea è preparatissima. Charlie tenta di aiutare Augustus nel libro. No. E la mamma di Augustus non aveva detto che chiamata pulizia. Se il cinema rimane il grande amore dei bambini, dopo questa avventura anche il libro sembra essere entrato nel cuore degli studenti. Per tutte le informazioni su queste e altre iniziative di Ottobre Piovono Libri, www.cepel.it oppure radio24.it. Anche per oggi è tutto, un saluto da Alessandra Tedesco. Ottobre Piovono Libri, in collaborazione con il Centro per il Libro e la Lettura.